como dit Drogba ou Funk. Ok. È una partita a scacchi con la morte come il settimo sigillo. T'attacchi alla tua vita sfidandone la sorte che ti invita ad andare oltre certe porte. Io brillo della luce di Dio e resto forte d'una potenza inaudita, elargita dall'essenza, e non vacillo nell'oblio, anche se certe volte sta a vedere che le cose vanno storte come un cazzo di tragitto di un alfiere. Alla corte talvolta la parvenza di avere una sola direzione come mosse di un pedone. Da sta questione resti afflitto e le risposte accorte le stando zitto e studiando il sapere, lottando tra caselle bianche e quelle nere, anche con le membra stanche continuando il conflitto. E se un disegno qui è già scritto, io difendo il mio regno ed abbatto queste frontiere. Scaccomato, sei sempre sotto assedio, un complotto nelle mosse, il tuo rimedio non puoi essere distratto. È scaccomato davanti alla scacchiera, chi vince chi s'azzera, tu preparati all'impatto. Scaccomato, sei sempre sotto assedio, un complotto nelle mosse, il tuo rimedio non puoi essere distratto. È scaccomato davanti alla scacchiera, chi vince chi s'azzera, tu preparati all'impatto. Vedo in bianco e nero, più rosso del guerriero, è davvero, è una guerra che stanca e non so chi difendevo, se una regina bianca, un cazzo di re nero. Passo il filo della lama e lotta intensa su un'altra casella, rompo ogni formazione, sono un fottuto pedone che lotta per se stesso. Fanculo un arrocco e me ne fotto se torre re. Cambianti posto e posto che il mio posto sia questo, il mio ruolo incerto. Sono un cancro fuori e dentro, la società è insindacabile e non cambierà mai un cazzo con tutta questa merda impossibile ed è consigliabile cambiare strade sul confine. Siamo eserciti di due file, dietro c'è una corte incrollabile, in prima linea c'è il tuo nome, una merda di pedone sacrificabile. Scaccomato, sei sempre sotto assedio, un complotto nelle mosse, il tuo rimedio non puoi essere distratto. È scaccomato davanti alla scacchiera, chi vince chi s'azzera, tu preparati all'impatto. Scaccomato, sei sempre sotto assedio, un complotto nelle mosse, il tuo rimedio non puoi essere distratto. È scaccomato davanti alla scacchiera, chi vince chi s'azzera, tu preparati all'impatto. Life is a game, no of that. Life is a game, no of that.